Nessun luogo, nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Buona giornata, gentili ascoltatori, benvenuti a Nessun Luogo è Lontano. Il saluto vi viene anche da Riccardo Poli in redazione. A confezionare con me il programma quest'oggi è Mauro De Angeli in regia. Le coordinate le sapete, 349-238-6666 per gli sms, la mail è nessunluogo@radio24.it, la pagina Facebook è Nessun Luogo è Lontano. Ma adesso, subito, a Londra. This is criminality, pure and simple, and it has to be confronted and defeated. London's burning! London's burning! Allora, il premier Cameron bolla come criminalità pura e semplice gli episodi che da tre giorni stanno infiammando la capitale britannica, promette ogni mezzo per sconfiggerla, ma intanto l'ultimo bilancio parla di 60 feriti solo ieri notte a Londra, 100 arresti a Birmingham, violenze anche a Liverpool, Leeds e Bristol, 13.000 agenti saranno schierati nelle prossime ore nelle strade di Londra, saccheggi e violenze contro la polizia. Ma che cosa vogliono i rivoltosi? Jerome Taylor, reporter dell'Independent. What the rioters want, difficult to say really, in the sense that there's no real political basis to this rioting. Cosa vogliono i rivoltosi? È veramente difficile da dire, nel senso che non c'è una vera base politica di queste rivolte. L'idea in generale è che tutto sia mosso dall'opportunità, dalla criminalità. L'antefatto della storia è una sparatoria a nord del paese dove è rimasto ucciso un uomo per mano della polizia la scorsa settimana in circostanze ancora sospette. Questo episodio ha generato proteste verso la polizia locale. Da sabato sera una piccola area a nord di Londra è stata invasa dalle rivolte ed è diventata una sorta di catalizzatore, un punto di partenza per rivolte ancora più grandi in tutta Londra. Come già detto, non sembra esserci una vera motivazione politica, ma piuttosto sembra essere semplicemente un episodio di violenza criminale. Much wider riots all across the capital. Ma una cosa è certa, la politica e anche i media in queste ore stanno puntando il dito proprio contro la polizia. Ascoltate. The problem is that the rioting is so widespread and sporadic that it's very difficult for the police. Il problema è che le rivolte si stanno allargando, ma sono sporadiche e questo rende molto difficile il lavoro della polizia per frenarle. Ogni volta che la polizia interviene in un luogo, i rivoltosi si spostano in un'altra area. Bisogna capire la tattica che la polizia sta usando. È molto raro che vengano usati i cannoni d'acqua, lacrimogeni e pallottole di gomma, le stesse tecniche che invece usano nell'Irlanda del Nord. Penso che proprio per questo ci sarà un dibattito molto duro su come sta agendo la polizia e su come dovrebbe cambiare le sue tattiche. And I think there'll be an ongoing debate about whether police tactics should change in the UK. Questa è la situazione nella capitale britannica di cui vi daremo conto nelle prossime puntate, ma oggi io voglio raccontarvi un'altra storia, è una storia fatta di rap, di rime, di un paese piccolissimo e sperduto che in pochi conoscono, è la storia di Mbatu, anzi DJ Mbatu. Noi abbiamo dovuto affrontare molte difficoltà, all'inizio anche finanziarie per poter pubblicare i CD, ma soprattutto difficoltà relative al fatto che noi critichiamo il governo, denunciamo quello che non va bene nel paese, quello che accade tra il governo e i militari, le loro pressioni, come sta la nostra società oggi. Noi nella nostra musica abbiamo criticato quello che fanno i militari, il loro colpo di Stato, il fatto che ammazzano, e noi lo abbiamo denunciato grazie al nostro microfono, che è l'unico mezzo per dire che il paese così non va avanti. Sono stato arrestato dai militari, sì, hanno preso solo me perché in quel momento non ero con gli altri, ma se fossimo stati insieme ti assicuro che ci avrebbero presi tutti e quattro. Comunque l'anno scorso mi hanno preso e mi hanno sbattuto in carcere. In prigione sono stato per una settimana e mi hanno picchiato con il loro casco e il loro fucile. Na pinca di vinha, troppa di 24 anni, leader del gruppo FBMJ, cappellino con visiera, pantaloni larghi, sneaker ai piedi, ho incontrato DJ Mbatu il settembre dell'anno scorso. Mbatu rappa, compone rime, fa concerti e nelle sue canzoni punta il dito contro un governo corrotto e contro militari che trafficano in droga. Oggi siamo in Guinea-Bissau, il paradiso della cocaina. dobbiamo fare uno sforzo, bisogna prendere una mappa o collegarsi a Google Maps, andare in Africa occidentale, e lì appena sotto il Senegal c'è un territorio piccolino incastonato fra oceano e foresta, un territorio piccolo e poco popolato, poco controllato dai confini permeabili, insomma l'ideale per farne un hub, uno snodo nel traffico di cocaina. Una posizione strategica fra America Latina ed Europa, un governo debole, una cupola militare forte interessata al narcotraffico e alla collaborazione con i colombiani, che hanno deciso così di lavorare qui. Il perché me lo ha raccontato Manuel Pereira dell'ufficio antidroga dell'ONU lì a Bissau, quando pochi mesi fa sono andato nell'ex colonia portoghese. What we have seen in 2000, in early 2007 and even beginning of 2008. Quello che abbiamo visto dall'inizio del 2006 fino all'inizio del 2008 in Guinea-Bissau è stata una completa anarchia del traffico della droga. I trafficanti potevano circolare tranquillamente nello Stato, si potevano vedere colombiani arrivare in aeroporto, stare negli hotel e fare le loro attività illegali apertamente, con la complicità del governo, anzi, con la facilitazione delle persone collegate alla politica. Quando hai persone del governo e militari coinvolti in traffici di droga, puoi quindi parlare di narco-stato. With the interference and with the facilitation of people that were connoted to political side. And that, yeah. When you have... Rasa Petri, Roberta Petrillo, quanti sono i narcostati al mondo? Beh, un'analisi grossolana, proprio con gli scarsi dati alla mano, mi porta a ritenere che in realtà nessun continente ne sia immune dal narcostato, dai narcostati. In primo luogo, parlando dell'Europa, mi viene da pensare immediatamente al Kosovo, ce l'abbiamo veramente a un'ora di volo dall'Italia. Passando per l'America Latina, mi viene da pensare al Messico, ovviamente. E qui vorrei dare un dato, perché soltanto negli ultimi 3 anni in Messico, a causa delle guerre legate al narcotraffico, sono rimasti un numero impressionante di morti, circa 24.800 morti, persone ammazzate per guerre legate al narcotraffico, quindi al dominio e all'egemonia delle rotte. E di questo e anche insomma della mattanza messicana parleremo poi in chiusura di puntata. Roberta Petrillo è analista e ricercatrice in geopolitica all'Orientale di Napoli, fresca di pubblicazione di un libro che si chiama Narcomics, che indaga in qualche modo quelle che sono le rotte e le economie collegate al narcotraffico. Facciamo uno sforzo di sintesi. Quali sono le caratteristiche che deve avere un narcostato? Tendenzialmente il narcostato coincide con quello che chi si occupa di geopolitica chiama failed state, lo stato fallito. In sostanza c'è una fortissima vulnerabilità dello Stato su vari fronti, sul fronte sociale, per esempio a causa di pressioni demografiche o movimenti di masse di rifugiati e profughi interni, per una vulnerabilità forte sul fronte economico, per esempio mi viene da pensare al caso africano, lo sviluppo economico squilibrato a livello statuale, oppure a causa di forme di declino economico violente e gravi. E poi chiaramente un altro elemento che caratterizza il narcostato sono gli aspetti legati alla criminalizzazione o alla delegittimazione dello Stato. È chiaro che tutti questi stati mostrano una fortissima contiguità tra settore lecito e settore illecito. C'è di fatto una corruzione endemica e uno sciacallaggio fortissimo messo in atto dall'elite al potere. Soprattutto quello che manca in questi paesi è quello che un po' raccontava anche Batu, il rapper, è l'assenza di trasparenza nella gestione della cosa pubblica, è l'assenza di uno stato di diritto ed è l'assenza ovviamente del rispetto dei diritti umani. Allora, il quadro che sta tracciando in qualche modo sembra condensarsi in questo piccolo paese che è la Guinea-Bissau, appunto fatto di confini molto labili, di una commistione tra il potere criminale e quello al governo, di un potere militare forte che è stato in qualche modo comprato, e poi c'è una posizione geografica che facilita tutto questo. Ascoltiamo ancora che cosa dice Manuel Pereira delle rotte della Guinea-Bissau. Guinea-Bissau has 80 islands, of which only 20 have inhabitants. So La Guinea-Bissau ha 80 isole, di cui solo 20 sono abitate, quindi 60 sono disabitate, con piccole piste d'atterraggio che vengono dal passato coloniale. Piccoli aerei pronti ad attraversare l'Atlantico possono atterrare lì, possono scaricare o caricare droga per poi trasportarla attraverso altri mezzi sulle rotte tradizionali, che sono quelle dell'Africa dell'Ovest e poi su al nord, per poi finire in Europa. They enter via West Africa and then they go out via Mali. Come avete sentito, i fattori che entrano, i fattori di elezione di un paese per farlo diventare un narcostato, per farlo diventare un hub, sono tanti e sono complessi. E allora diventa complesso e diventa difficile per chi combatte il narcotraffico andare a cogliere questi fattori e cercare di contrastarli. Do il mio benvenuto anche al tenente colonnello Mauro Scenna, capo dei servizi di analisi della Direzione Centrale Antidroga. Colonnello, buongiorno. Buongiorno a lei, dottor Musumeci, grazie per avermi invitato. Grazie a lei per essere qua. Come fa un poliziotto antidroga a seguire una filiera così ampia, un narcotraffico così globale, così mondiale, che parte dalla Colombia, passa per l'Africa, arriva in Spagna e poi in Italia? Beh, c'è da dire innanzitutto che qualche dato per capire un po' il fenomeno. Nei primi sei mesi di quest'anno le forze di polizia sul territorio, quindi le tre principali forze di polizia con le agenzie delle dogane, hanno sequestrato 2.400 kg di cocaina. Di questi 2.400, un terzo circa, in base alle nostre analisi, provengono dagli stati africani. E rimanente due terzi dai grossi porti del nord Europa, quindi Rotterdam, Amsterdam. E la cocaina che arriva dalla rotta appunto africana, come le diceva poc'anzi, va comunque contrastata. E noi come DCSA partecipiamo a diversi tavoli internazionali, penso innanzitutto alla piattaforma africana, in collaborazione con le altre polizie europee, cerchiamo appunto di migliorare la capacità interdittiva, la capacità di contrasto di quegli stati. Non è facile perché, come diceva poc'anzi lì in la sua redazione, esistono dei fenomeni di corruzione abbastanza evidenti, esiste instabilità politica e sociale, però lo sforzo italiano ed europeo è quello appunto di colmare il gap di conoscenze professionali, di capacità interdittive di quegli stati. Grazie, colonnello, stia con noi perché adesso c'è l'informazione finanziaria e poi di nuovo la cocaina. Nessun luogo è lontano. Nessun luogo è lontano. Polvere nera, ovvero le rotte della polvere bianca, della coca, attraverso i nodi dell'Africa occidentale. Di questo parliamo oggi a Nessun Luogo è Lontano. Il colonnello Scenna della Direzione Centrale Antidroga ci stava spiegando come si aprono dei tavoli con i colleghi africani per, come dire, aumentare le loro competenze di contrasto verso i narcotrafficanti. Però è anche vero che esiste un problema di budget. Che cosa intendo? Beh, che i narcotrafficanti hanno una potenza finanziaria che appare quasi illimitata. Ascoltate ancora Manuel Pereira dell'Ufficio Antidroga dell'ONU, che così mi ha parlato a Bissau 9 mesi fa. When we are talking about drug trafficking, we are talking about unlimited budgets. Unlimited budgets. Quando parliamo di traffico di droga, parliamo anche di budget illimitato. Quando mostri un budget illimitato in paesi dove un pubblico ufficiale guadagna 20 o 25 euro al mese, è abbastanza complicato affrontare questo problema. O hai la dignità di dire no, guadagno per quanto lavoro e questo è tutto, oppure la dignità la perdi perché altri valori più importanti come il denaro prendono il sopravvento. Allora, il mercato della cocaina è un mercato gigantesco, è un mercato globale, un mercato mondiale che abbraccia tante rotte diverse, che mette in gioco tanti attori, tanti soggetti diversi. Non dobbiamo pensare al narcotrafficante come a un povero disgraziato, figure marginali di romanzi d'appendice. Li ho incontrati a Bissau. Mi ricordo di questo El Chico. Era un grosso narcotrafficante, capoverdiano, è entrato in un vecchio bar polveroso, era gobbo, era magro come un fuscello, è ripartito su un van scassatissimo e sgangherato. Ma non c'è solo quello, c'è anche una mafia dei trafficanti che sono in doppio petto, che sono abili businessmen. Ma adesso cerchiamo meglio di fare il punto su quelli che sono i numeri e le rotte del narcotraffico alla cocaina a livello mondiale. L'ufficio antidroga delle Nazioni Unite ha stimato che circa lo 0,5% della popolazione compresa tra i 15 e i 64 anni, pari ad un numero compreso tra i 14 e i 20 milioni di persone, ha fatto uso di droga negli ultimi anni. Dal punto di vista geografico, dal 2009 il consumo di cocaina è aumentato. Il dato riguarda particolarmente paesi come l'Africa e l'Asia, in cui la circolazione della sostanza ha raggiunto regioni mai coinvolte in precedenza, grazie al supporto che gruppi criminali danno ai trafficanti provenienti dall'America Latina. I profitti del commercio vengono impiegati nel settore edilizio, in paesi come Senegal e Costa d'Avorio. In Nord America si conferma lo stato con il maggior numero di consumatori, quasi 6 milioni di persone, primato conteso con il Canada. La diffusione del fenomeno in Asia è significativo soprattutto in alcune regioni del sud, mentre in paesi come la Nuova Zelanda e l'Australia si riscontra una sua stabilizzazione dopo l'aumento di consumo registrato fino al 2007. Spostandoci in Europa, la tendenza all'incremento di utilizzo si conferma in quasi tutte le nazioni, fatta eccezione per l'Italia, dove sembrerebbe verificarsi un declino. Nel 2010, la dimensione dell'area dedicata alla coltivazione della sostanza in Colombia si è fortemente ridotta. In realtà, i numeri del fenomeno sono soggetti a cambiamenti a causa della nascita di nuovi campi, recupero di vecchie zone dedicate e nuove tecniche di lavorazione. I tre principali mercati della cocaina, in termini di volume, sono il Nord America, seguito dall'Europa e dal Sud America. Il 90% della quantità consumata nel nord del continente americano deriva dalla Colombia. In Europa la provenienza ha origini più varie, comprendendo anche paesi come il Perù e la Bolivia. Tra le nuove rotte dei trafficanti nell'Africa occidentale, le Nazioni Unite segnalano la Guinea come attore principale. Il valore globale del mercato della cocaina è diminuito rispetto agli anni 90, quando i prezzi erano molto più alti e la richiesta del mercato americano era forte. Nel 1995 il giro d'affari era stimato intorno a 165 miliardi di dollari, contro gli 85 riconosciuti oggi. Stiamo quindi parlando di una montagna di soldi che viene mossa da questi soggetti. Roberta Petrillo, è possibile fare un identikit del narcotrafficante? Io citavo, diciamo, per esclusione la vecchia immagine che si poteva avere una volta, no? Sì, un'immagine superata, concordo. L'immagine del narcotrafficante oggi è quello di un businessman che si muove a livello globale con un forte radicamento territoriale. Cosa intendo? Intendo che chiaramente è scorretto immaginare il narcotraffico globale come un fenomeno fluido e privo di legami territoriali. È chiaro che un narcotrafficante che si muove con una forte base di sostegno, ovviamente sostegno economico, ma in alcuni casi, come nel caso dell'Africa occidentale, anche politico, trova la sua ragion d'essere nel contesto di partenza. Quello che cambia, e questo forse è anche un effetto dei nuovi mercati globali, è la proiezione distributiva delle proprie attività di impresa. Per esempio, noi nel volume, appunto, in Narconomics, il volume a cui ho collaborato io unitamente ai colleghi Tacconi, Bizzarri e Ferrara, ci siamo posti il problema dell'identificazione di un soggetto tipo che si occupa appunto di narcotraffico globale, e chiaramente a livello nazionale ci sono comunque delle differenze fortissime. Per esempio, il caso africano cui faceva riferimento lei è un caso a sé stante, perché in realtà fino a 5-6 anni fa erano veramente dei parvenu del narcotraffico, tant'è che erano abbastanza alla mercé dei diktat provenienti dai colombiani e successivamente dai messicani. Quello che sta emergendo oggi è una nuova supremazia, un'egemonia che si basa su nuove partnership. Oggi i narcotrafficanti della Guinea Bissau, ma così anche i nigeriani, trattano tu per tu con gruppi criminali nostrani. Per esempio, il caso dei nigeriani è abbastanza è abbastanza noto, agiscono in combutta con alcuni dei clan attivi nell'area domiziana del sud italiano. Sì. E questo è un caso tra i tanti. La Guinea-Bissau poi ha anche un altro elemento interessante, è la contiguità che i narcotrafficanti locali vantano non solo con i cartelli latinoamericani, ma anche con le componenti jihadiste. Noi nel nostro volume abbiamo raccontato di un vertice che si è svolto appunto nelle isole, nell'arcipelago delle Bijagos ad ottobre del 2010, in cui c'erano dei luogotenenti di Hakim, la costola jihadista nel Maghreb, che trattava appunto direttamente le nuove rotte e quelli che erano i nuovi canali distributivi del narcotraffico dei nostri giorni. Per cui è una roba che sta cambiando, uno scenario che è continuamente in evoluzione. E quindi, Petrillo, anche Al-Qaeda nel Maghreb, che comunque da sempre non ha una grandissima vocazione ideologica jihadista, più che altro insomma fa del rapimento degli occidentali e del traffico di armi e droga il suo business principale, insomma si infilerebbe nella filiera dell'Africa occidentale. Vorrei tornare al colonnello Scenna, perché nella scheda che abbiamo preparato si parlava dei numeri e del valore della polvere bianca nel mondo, e c'è un meccanismo che è molto molto interessante, che è l'oscillazione e l'aumento del prezzo del grammo di cocaina a mano che si avvicina al mercato finale. Si parte dall'America Latina, si parte dalla Colombia, poi piccoli aerei sbarcano alle isole Bijagos, scaricano la coca, viene ristoccata, magari viene portata da piccoli corrieri che ingoiano gli ovuli o dai camion lungo le rotte tradizionali del deserto, poi riescono ad arrivare in Spagna e in Italia. Che cosa accade, colonnello, al prezzo del grammo di coca a mano che si avvicina all'Italia e all'Europa? Sì, guardi, partiamo dalla Colombia, dalla Bolivia o dal Venezuela, dove un chilogrammo di cocaina si può acquistare con 1.500-2.000 euro. E questo stesso prezzo di poco maggiorato si può pagare anche nella Guinea-Bissau, perché il prezzo varia in funzione della disponibilità della coca sul mercato. Man mano che la rotta prosegue verso il mercato di consumo, verso i ricchi mercati di consumo italiano ed europeo, il prezzo continua a salire, perché chiaramente si deve pagare un dazio ad ogni frontiera che il carico attraversa, fino ad arrivare in Europa, dove la cocaina più economica viene venduta dai serbi, dalle organizzazioni criminali serbo-montenegrine, che la vendono a 36.000 euro al chilogrammo. In Marocco, ecco, quindi nell'area prospiciente lo stretto di Gibilterra, un chilo di cocaina si può acquistare con 26-27.000 euro. C'è da dire che molto spesso i narcotrafficanti colombiani e venezuelani pagano il dazio, pagano l'attraversamento della frontiera con delle quantità di cocaina, quindi non con soldi, e questo comporta ovviamente dei problemi anche per quei paesi che risultano attraversati dalla rotta africana, con il conseguente aumento dei consumatori, con l'immissione nel mercato clandestino di nuove mafie, di nuove organizzazioni criminali, questa volta africane. Tutto ciò complica notevolmente l'attività delle forze di polizia sul territorio italiano, poiché di anno in anno si affacciano su questo mercato clandestino nuove organizzazioni, magari più agguerrite, magari con maggiore volontà di affermazione. Colonnello, prima di lasciarla al suo lavoro telegrafico, dove intervenite? Tendete a intervenire alla fonte, a metà della filiera, appena il carico di cocaina arriva? Guardi, noi abbiamo una rete di esperti per la sicurezza, per l'antidroga, che copre anche dei paesi africani. Li abbiamo in Europa orientale, li abbiamo in America Latina. E il nostro obiettivo è quello di monitorare il carico quando questo è possibile. Quindi partire dal container imbarcato in Venezuela, arrivare alla frontiera africana, possibilmente monitorare tutto il tragitto fino a far emergere l'organizzazione italiana che acquista quella droga. Questo è l'obiettivo principale. Ove questo non è possibile, perché c'è mancanza di collaborazione da parte di alcuni stati africani, allora il nostro interesse è bloccare il carico ben lontano dalle nostre frontiere, perché una volta attraversata la frontiera Schengen, il carico viene immediatamente parcellizzato per abbattere il fattore rischio. Quindi se sulla costa africana riusciamo a far sequestrare su uno yacht turistico, su un peschereccio, anche 2000 kg di cocaina, un simile risultato in Italia è piuttosto raro, piuttosto difficile, insomma, perché una volta, ecco, sbarcato al porto di Gioia Tauro o a qualsiasi, a quello di Trieste, immediatamente il container viene depositato in diversi siti, allora, proprio per scongiurare un maxi sequestro. Grazie allora al tenente colonnello Mauro Scenna, capo del servizio analisi della Direzione Centrale Servizi Antidroga. Una buona giornata e un buon lavoro. Grazie a voi. Questa era la riflessione su quello che è il traffico di droga. Adesso un altro traffico, quello automobilistico, poi di nuovo Nessun Luogo è Lontano. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Another situation that existed, or let's say non-existed in 2007-2008 was, and this was a problem of impunity. C'è un'altra situazione che non è mai stata affrontata in Guinea prima d'ora, ovvero l'impunità. Non c'erano prigioni in Guinea-Bissau fino al 2010. C'era un centro di detenzione della polizia giudiziaria, c'erano le cosiddette squadras, che non erano vere prigioni, ma delle celle, delle segrete, posti orribili, non esattamente in linea con quanto richiesto dalla Carta dei diritti umani. Nessuno sapeva perché si trovava lì, per quanto tempo dovesse starci, quando fosse arrivato, quando se ne sarebbe andato, quale fosse l'accusa e la sentenza. Non c'erano registri, nulla. E i criminali erano i primi a sapere di questa confusione e quindi dicevano: arrestatemi, mi terrete un giorno con voi e tanto poi mi rilasciate perché non avete un posto dove mettermi. E questo succede veramente. And the criminals are always the first ones to know this. So they know, I can be arrested, I would stay one day and I'll have to pay. Capitava anche questo in Guinea-Bissau. Ho avuto la fortuna di assistere all'inaugurazione della prima prigione del paese, con grande soddisfazione delle autorità locali che finalmente si dotavano di un luogo, per quanto piccolo, dove cacciare i trafficanti. L'altro punto però era mettere in gabbia questi trafficanti, bisognava prenderli. Alcuni erano i capi di Stato Maggiore, erano gente dell'esercito, con i propri soldati pronti a difenderli. Era una guerra asimmetrica. Una guerra combattuta da pochi poliziotti con pochi soldi, poche armi, addirittura una sola macchina, erano senza manette. Le manette arrivarono, mi raccontò il funzionario dell'ONU, arrivarono dal Portogallo e finalmente qualche trafficante riuscì a entrare in queste prigioni. E un aspetto molto interessante del narcotraffico è in qualche modo una visione del mondo. Il narcotraffico va ad attingere, va a muovere anche componenti estetiche, se vogliamo. Insomma, diventa in qualche modo una cultura, una narcocultura. Yeah, razza Petri PR. Ne pinca di vigna di vigna. Yeah, King Star se tiene cabeza e teca duna. E così sulle polverose strade di Bissau, questa capitale africana occidentale dove, pensate, non c'è luce pubblica elettrica, dove si sentono i generatori ronzare tutta la notte. A un certo punto iniziarono a spuntare delle ville sontuose e lussuosissime, iniziarono a girare degli Hummer, questi giganteschi SUV che costano oltre 100.000 euro. E iniziarono a girare personaggi del luogo, anche colombiani, vestiti in maniera appariscente, con questi abiti coloratissimi, con dei Rolex al polso. E poi, insomma, ci sono pistole dorate, ci sono gruppi rap che inneggiano al narcotraffico. Che cos'è la narcocultura, Roberta Petrillo? La narcocultura è quello che descrivevi rapidamente tu in poche parole, cioè è sostanzialmente un veicolare uno status di successo sociale connesso all'identità di persona che o smercia droga o ne fa uso. È un qualcosa che è stato molto studiato per quanto riguarda l'America Latina, per esempio il caso messicano in questo è eloquente. Noi abbiamo assistito a una spettacolarizzazione del fenomeno narcos, bazooka personalizzati, reginette di bellezze imposte di volta in volta da capi cartello di spicco e così via. Quello che sta accadendo di interessante è una sorta di effetto domino della narcocultura anche nel contesto africano. Non bisogna spingersi molto lontano, perché in realtà è un fenomeno che noi possiamo già datare a metà degli anni 90. Per esempio in Nigeria negli anni 90 erano molto ambiti gli area boys, erano ragazzi che facevano uso di componenti di scarto dell'eroina, che chiaramente avevano attitudini e costumi molto simili a quelli dei narcotrafficanti messicani, e che erano un po' l'emblema della personalità di successo che riesce ad arricchirsi anche utilizzando, grazie ai traffici illeciti. Un qualcosa che tu hai perfettamente descritto e reso nell'immagine appunto degli Hammer o delle ville blindate. Qualcosa di presente anche a Lagos, per esempio, in Nigeria. E questo, forse la narcocultura veicola un qualcosa che non è un sapere, è proprio un'attitudine al successo, è un'attitudine a una centralità sociale. Tra l'altro un'attitudine al successo che delle volte prende delle forme grottesche, che appunto a Bissau ho trovato, mi hanno raccontato, è un posto incredibile Bissau, mi raccontavano del capo, ex capo dei servizi segreti, si chiamava Bassiru, il capo dei servizi segreti guineensi era un cantante di successo, e oltre appunto a gestire l'intelligence di Bissau, che peraltro insomma fa acqua un po' da tutte le parti, cantava nei locali ogni sera. Ebbene, alla fine dei concerti, lui, dopo che fu coinvolto nel narcotraffico e quindi era diventato, come dire, danaroso, distribuiva denaro al pubblico che assisteva ai suoi concerti, cioè usciva e lanciava banconote verso il pubblico. Per cui nella narcocultura esiste questa strana forma, in qualche modo, di arroganza, di impunità e di eccesso di estroversione insieme, sei d'accordo? Sono d'accordo, e aggiungerei anche un dettaglio: mi sembra abbastanza ragionevole pensare che la narcocultura può imporsi in un contesto in cui lo Stato non c'è. E tanto per restare insomma sul caso della Guinea-Bissau, dalle parole, dall'ultima dichiarazione appunto che ti ha reso Pereira, la situazione in Guinea-Bissau è soltanto peggiorata, ed è una cosa appunto comprovata anche da una recente indagine condotta dall'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati. Cioè, questa cosa non, a me personalmente non stupisce, cioè in un paese che ha avuto 27 anni di indipendenza costellati da governi autoritari e colpi di Stato, un paese in cui il prodotto interno lordo è stimato in 400 milioni di dollari, non può far in realtà nulla per contrastare l'ascesa di una simbologia così prominente. E va detto anche che comunque poi i trafficanti, rispetto poi alle forme statuali, riescono a far capire chiaramente chi comanda. Io vorrei citare soltanto una storia che a noi durante la stesura del libro ha colpito molto. Breaking news. Una breaking news con le ultimissime che arrivano da Londra, dove un ragazzo di 26 anni è morto negli scontri che stanno infiammando la capitale inglese ed altre città della Gran Bretagna. Il nome in questo momento non è stato ancora diffuso, era stato ferito a Croydon, aveva 26 anni e si tratta del primo morto dopo l'inizio degli scontri, dopo il ragazzo nero che era stato ucciso sabato scorso, dalla cui morte erano divampati tutti i disordini che si stanno allargando nelle varie città inglesi. Tutti i dettagli nella GR delle 14. Allora, questi gli ultimi drammatici sviluppi che ci vengono da Londra, di cui la redazione ci ha dato conto. Eravamo ancora con Roberta Petrillo, parlavamo di narcocultura, tu hai citato il caso messicano, allora io ti saluto, ti ringrazio per essere stata con noi, buona giornata, buon lavoro, e porto i miei ascoltatori a Ciudad Juarez. In Messico si sviluppa un'economia che qualche analista ha denominato, senza ironia, distretto produttivo internazionale della droga, dove si ritrovano tutti i segmenti della filiera di produzione: i commercianti all'ingrosso, quelli al dettaglio, i finanziatori e i corrieri. Poi i tecnici, che modificano l'assetto di auto e camion per nascondere quintali di merce proibita. Droga, ma non solo. Questa sembra davvero, stiamo parlando di Ciudad Juarez, al confine con il Texas, una città del male, se persino la Chiesa Cattolica ha finanziato la fissione di enormi manifesti che raffigurano due mani giunte, il volto di Gesù e la scritta «Preghiamo per la città». ne abbiamo bisogno. Lungo la strada che dall'aeroporto conduce al centro, peraltro poco distinguibile dalla periferia, ce ne sono a decine di cartelloni, ma non solo, una camionetta della polizia dietro l'altra con i poliziotti in assetto di guerra permanente. E questa è questo il primo impatto di chi arriva in questa città maledetta. I numeri sono inquietanti, quasi 30.000 morti negli ultimi 7-8 anni, anche se nessuno può quantificare con esattezza il numero delle vittime. E il Messico è il luogo dove c'è in corso una guerra vera e propria, ormai da più di un anno e mezzo, decine di migliaia i morti, ma è il luogo anche che accoglie queste storie. Quanti altri giovani hai in questa banda, minori di 18 anni? Uno, uno di 20. Sì? Nada más tu eres el menor? Sì. Dove nasciste? San Diego, California. Tu eres de Estados Unidos, chi è nato a San Diego, California, è El Ponchis, è un ragazzino, ha 15 anni e rischia 3 anni di carcere, però è stato imputato per omicidio e 4 decapitazioni. Era stato rapito dai narcotrafficanti ed era stato, come dire, un'educazione alla violenza e al narcotraffico, poi è stato preso. Insomma, il Messico ci consegna anche queste storie, ma dicevo, quella che è in corso nel paese dell'America Centrale è una guerra che coinvolge sì anche i minorenni, ma è vera guerra. Sentite ancora Darin. Questa è un'emergenza nazionale per il Messico e la potenza di fuoco è difficile da definire in termini di scambi commerciali di droga. Ciò che appare chiaro è che, come riporta giornalmente El Diario, che è il quotidiano di Ciudad Juárez, i ritrovamenti di teste mozzate quasi ogni giorno, le agghiaccianti confessioni di chi ha sciolto centinaia di cadaveri nell'acido, le foto di una città spettrale su cui alle 6 di sera cala ogni giorno un coprifuoco senza che nessuno lo abbia proclamato, sono i segni più tangibili di una situazione di emergenza continua. Ora, ciò che è accaduto negli ultimi tempi è che il presidente messicano Felipe Calderón ha lanciato un monito all'amministrazione Obama per ricordare che se questa situazione è degenerata in questo modo, gran parte della responsabilità è degli Stati Uniti, che rappresentano in qualche modo la domanda di droga, e quindi senza una domanda crescente non vi sarebbe neppure un'offerta. Ma puro Reynosa, un cingo di malandro, pura gente mafiosa, lo sufre solo goza. Reynosa la maldosa, la calle è peligrosa, póngase me trucha, pura gente maldosa. Somos puro Reynosa, un chingo de malandro, pura gente mafiosa, los sufres son los gozas. Reynosa la maldosa, la calle es peligrosa. E questa era la fotografia che abbiamo tentato di tracciare, di tratteggiare quest'oggi, la polvere nera, cioè la polvere bianca che passa dal continente nero e passa dall'America Latina attraverso l'Africa occidentale e arriva fino in Europa, fino all'interno dei nostri confini. È un quadro drammatico, un quadro però molto fluido che coinvolge anche personalità, come dire, di alto livello. Lo avete sentito nel caso della Guinea-Bissau, dove addirittura i militari, i governativi sono coinvolti. Un quadro fluido, un quadro in continua evoluzione, un quadro, avete sentito dalle parole del colonnello Scenna, che viene combattuto attraverso mezzi investigativi piuttosto raffinati. A questo punto, ai titoli di coda, non mi resta che ringraziare in redazione Riccardo Poli, che ha confezionato con me questa puntata. C'era Mauro De Angeli alla parte tecnica. Non mi resta che darvi appuntamento domani, come ogni giorno per il mese di agosto, 13:15 puntuali. Ricordate, nessun luogo è lontano.